Piacere, sono Francesco, un giovane italiano, e se mi penso tra 10 anni mi vedo sopra un divano ad arrancare speranzoso per ogni sorta di impiego. Ma a conoscermi so solo che mi fermo e ora mi chiedo: dove pensi, dove guardi, oltre tutti questi sguardi? Cosa stai cercando in questo mondo di codardi? Dove l'aspettativa migliore è mettere su famiglia, oppure trovare uno sposo ricco per la propria figlia? In un'Italia tronista non mi posso immaginare, troppe banalità e cazzate devo scappare. Ed oggi purtroppo vale l'immagine che si dà, e non quello che dentro la propria testa si ha. Non si vive in funzione di niente ma di tutto, niente soldi uguale, modi civile senza lutto. Eppure serve il denaro per essere indipendenti, oppure detto in un altro modo, degli schiavi sorridenti. Cerca di scappare tra, cerca di capire tra, fuori dagli schemi nessuno ti capirà. Cerca di scappare tra, fuori dall'Italia fra, cercati un faro perché qui si morirà. Meglio vivere 50 anni vissuti che 80 passati, a servire dei mostri subendo rimorsi incarnati. Nel desiderio di ciò che avrei voluto fare, meglio un rimpianto che un rimorso, c'è poco da dire. Bisognerebbe capire solo quello che si vuole, andando oltre il misero pensiero imposto dalle scuole, sorvolando su ogni aspetto pseudo religioso e su ogni altro timore che rende l'uomo ansioso. Ma l'uomo si sa, in fondo è un egoista, che tifi Juventus, Milan oppure sia interista, cerca solo di arrivare alla vittoria, istinto di sopravvivenza impresso come un promemoria. Ma la libertà non è solo individuale, forse c'è bisogno di un supporto piano sociale, e la vera vittoria si potrà presentare soltanto quando tutti la smetteranno di cercare. Cerca di scappare tra, cerca di capire tra, fuori dagli schemi nessuno ti capirà. Cerca di scappare tra, fuori dall'Italia fra, cercati un riparo perché qui si morirà. E dopo Mario è arrivato Pac-Man, bello, con questi cazzo di videogiochi mi son fottuto il cervello. E se la vita fosse proprio come un gioco, credo che mi sarei divertito ben poco. Una serie di codici e stringhe fanno continuare una serie di azioni con delle basi binarie, delle rotaie non fanno scorrere le emozioni, ma soltanto dei grossi e metallici vagoni. È vero, forse tutto sarebbe più semplificato, non mi ritroverei con un polpaccio bucato, però sarebbe tutta quanta fatta e ripetitiva, ed il destino si crea con un minimo di inventiva, pieno di imprevisti, di ricordi e di errori, ricco di insegnamenti e anche ricco di orrori. Ed io preferisco continuare dopo aver sbagliato, senza caricare il gioco, perché così ti ho imparato. Cerca di scappare fra, cerca di capire fra, fuori